vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale. Iniziamo con questo anonimo poeta inizio secolo XX. Il prete sull'altare con le natiche al pubblico minchione, ora qua, ora là pare, vada cercando la persa ragione. Per non essere udito e meno ancora capito, parla basso e latino. O cose dunque la messa, una corbelleria qualunque. Buone notizie da Belcastro, in provincia di Catanzaro. Una delle più dure pene inflitte a un sacerdote, colpevole di aver abusato sessualmente di ben 15 minorenni. Parroco 43enne, condannato a 13 anni di carcere. I fatti incriminati risalgono a un arco di tempo dal 2000 al 2007. Le indagini partite dalle denunce coraggiose dei genitori. Le violenze sulle giovani vittime avvenivano nell'oratorio della parrocchia. Dico sempre, state lontani dagli oratori. Poi l'altra tragedia di pochi giorni fa, cade in un pozzo di 30 metri, muore a 12 anni. Era al centro estivo della diocesi di Gorizia. Era con gli amichetti del centro estivo organizzato dalle parrocchie ed è precipitato in questo pozzo morendo sul colpo. Ogni anno alcuni bambini affidati incautamente ai preti muoiono per la negligente sorveglianza clericale. L'epidemia di Covid ha ucciso anche un vescovo dal Bergamasco alla Bolivia, stroncato dal Covid. Oratori estivi verso il forfè. Non ci sono le condizioni, così dice un giornale di Monza. Il referente Don Luca, difficilmente le nostre strutture potranno avere la forza e la possibilità di gestire i ragazzi. Sul canale 146, Rai Scuola, Giordano Bruno commentato da autorevoli filosofi settimana scorsa alle 12.30. La serie si chiama Il caffè filosofico. Scuole paritarie clericali in affanno, rischio chiusura. Tra rette ridotte e cassa anticipate il futuro è quando mai incerto. E speriamo che chiudano. Prete, se lo conosci lo eviti. Da Cremona. 22 luglio, Don Alberto Mangini coinvolto in scandalo su fondi Covid deviati. Il coraggioso docente di chimica Gallaschelli dell'Università di Pavia prosegue la sua campagna contro la sindone di Torino, è falsa. Lo dimostrano i rivoli di sangue. Per l'esperto il telo conservato a Torino è un falso. Dopo lo studio che ha contestato l'autenticità della sindone. Attraverso esperimenti abbiamo dimostrato che le direzioni e il modo in cui il sangue sarebbe colato sul cosiddetto uomo della sindone non sono compatibili. A Milano organizzata una mostra di sculture in un'ex chiesa, quello che noi auspichiamo, appunto, la trasformazione di tutte le chiese in biblioteche, musei, sale da concerti, eccetera, eccetera. Quindi a Milano abbiamo questa chiesa sconsacrata, trasformata in museo. Don Michel Hill, Inghilterra, secolo XX. Si stimano le sue vittime fra le 20 e le 30. Non aveva pietà nemmeno per i disabili. Fu attivo pedofilo dal 59 al 2002, sempre coperto dalle diocesi. Anche da cappellano dell'aeroporto molestava i giovinetti che gli capitavano a tiro con le valigie. Alla fine fu condannato a 5 anni. Approfittava perfino dei pellegrinaggi. Don Lawrence Murphy, USA, secolo XX, violentò circa 200 bambini sordi dal 50 al 74, anche durante il sacramento della confessione. Nel 2010 erano ancora in corso cause civili. Don John DeHaan, Australia, contemporaneo. Nel 2009 condannato per un totale di 134 reati sessuali ai danni di ben 39 ragazzini, sodomia e violenza carnale. Faceva ubriacare i ragazzi prima di stuprarli. Viva il libero pensiero, ora e sempre resistenza anticlericale. Concludiamo con qualche detto del mio libretto Piccolo dizionario di terminologia anticlericale. Buio etico. Caratterizza il Vaticano da sempre a causa della sua doppiezza. burocrazia ecclesiastica romana, insieme dell'apparato clericale romano, che costituisce il vero padrone della Chiesa cattolica, in quanto il Papa regna ma non governa. Buroteocrazia ecclesiastica, definizione simile alla precedente. Cancro della società italiana. Lo era il papato per Garibaldi. I preti romani andrebbero mandati a bonificare le paludi pontine. Cancro religioso. Condanna l'uomo a giustificare tutti i suoi atti per un'eventuale retribuzione che avviene post mortem. Canonizzazione dell'hitlerismo. Fu fatta dal Vaticano tramite il concordato clerico-nazista del 1933 e ricordiamo che il papi ogni 20 aprile compleanno di Hitler gli mandavano sempre il telegramma di auguri, il clerico-nazismo. Bene, saluti a tutti, buone cose a tutti, buone vacanze a chi è in viaggio, sempre saluti anticlericali.